E ora dimmi che vuoi, cosa stai chiedendo al mare? Sei silenziosa col mondo, stai parlando con me. Sembri un po' distratta, ma quel tuo sguardo che va oltre, quella mano un po' racchiusa che pare voglia stringere. Un amore come fosse una favola, rosso come il centro di una fragola, mentre io mi nascondo dietro di te. Mentre ti parlo, mentre resto incantato dal tuo profilo che ho sempre sognato, prendersi la mano e poi via. Respira con me, calpestiamo questo angolo di mondo, facciamo in modo che ogni cosa si ricordi di noi. E dammi il tuo profumo ancora, regalami una scheggia d'aurora a questo cuore infranto che ormai batte solo per te. Di sentirmi così fragile non mi era capitato mai. Sono così vulnerabile quando parli un po' di noi. E non vedo più possibile fare a meno di quest'onda che ci travolge e ci porta via. Lontani da qui, in un mondo più caldo, dove un bacio è un colore, dove non serve altro. Lontani da qui, da questi angoli stretti, in un mondo di stelle, dove siamo perfetti. Volare via, amore blues non è una canzone. Volare via, amore blues non sono persone. Volare via, amore blues è molto di più. Volare via, amore blues sei tu. Volare via, amore blues sei tu. Volare via, amore blues sei tu. Volare via, amore blues sei tu. E ora dimmi che sai, parlato al mare, il mondo non ti ascolta perché hai parlato con me. Ecco perché le parole non bastano per capire chi sei. Solo io.